Beh, diciamo che si tratta di una normativa europea che è stata emanata già da diversi anni, che rimane comunque una normativa assolutamente discutibile e violenta, comunque. Sicuramente però nella sua struttura ha un'impostazione che in qualche modo, per tanti versi, è migliorativa rispetto a quella italiana. E considerate che oggi è l'ultimo giorno per gli Stati membri per poter recepire questa normativa, questa direttiva che l'Italia non ha recepito. Sostanzialmente quindi l'Italia in questo momento, da domani diciamo, si ritrova ad avere una normativa italiana che è in contrasto con la normativa europea, con la conseguenza che la normativa europea in quanto tale, in quanto scaduta diciamo, potrebbe essere immediatamente o dovrebbe essere immediatamente applicata dai giudici e dalla pubblica amministrazione sul territorio italiano, in contrasto e quindi derogando con la normativa, alla normativa italiana. È una normativa, quella comunitaria, che prevede una serie di aspetti assolutamente discutibili, tra cui anche il prolungamento della detenzione nei CIE fino addirittura a 18 mesi, quindi per un periodo più lungo. Però ha di buono il fatto che è stata strutturata in maniera diversa e differente appunto da quella italiana, perché quella italiana si basa su un principio cardine, per cui una persona senza un permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni deve essere automaticamente, immediatamente deportata forzatamente nel suo paese di origine. Cioè, questa per la normativa italiana è la regola. Soltanto qualora non sia possibile deportarla immediatamente, allora la normativa italiana prevede la possibilità di, per questa persona straniera, di essere trattenuta in un CIE per un massimo di 6 mesi, e soltanto nel caso in cui non ci dovesse essere uno spazio fisico dentro un CIE, la possibilità di prevedere l'emanazione di un ordine di allontanamento entro 5 giorni dall'ordinamento dal territorio italiano. Quindi sostanzialmente una regola che prevede, quella italiana, la deportazione immediata come regola di fondo. Deportazione ovviamente forzata, è un divieto di rimpatrio, di rientro in Italia, che è automaticamente stabilito in 10 anni. Ebbene, la normativa comunitaria prevede un assetto appunto opposto, perché ha come regola di base quella per la quale la persona straniera deve anzitutto, nel momento in cui si trova senza permesso di soggiorno, deve anzitutto essere invitata a volontariamente abbandonare il territorio italiano, il territorio europeo. Quindi diciamo che la regola di fondo è quella che una persona viene invitata a andare via, a tornare nel paese d'origine in modo volontario, dando a questa persona un termine che va da 7 giorni fino a 30 giorni per attuare volontariamente questo ordine. Se non che la normativa europea ovviamente prevede che in una serie di casi questo invito ad abbandonare volontariamente il territorio italiano possa trasformarsi in una deportazione forzata o in un trattenimento in un CIE, però lo prevede soltanto qualora appunto la persona diciamo sia pericolosa, sia stata dichiarata pericolosa per lo Stato italiano, e solo quando c'è un pericolo di fuga, insomma soltanto a certe condizioni. Quindi sostanzialmente inverte l'ordine, no? Della regola, quindi te ne vai volontariamente, salvo che ci siano delle ipotesi eccezionali in cui lo Stato ritiene che sia necessario deportarti forzatamente o comunque trattenerti in un CIE per un periodo di tempo. Quindi, rispetto il prolungamento dei tempi di detenzione, sembrava che comunque era già nell'aria, al di là di questa normativa, non so se dipendesse da questa normativa, però rispetto il trattenimento, cioè l'internamento dentro i CIE e la deportazione forzata, penso che un elemento che agisca sia quello della commissione di un reato, e quindi il reato di clandestinità sembra comunque l'elemento incompatibile con questa normativa. No, purtroppo non è esattamente così, cioè purtroppo la questione è molto più complessa e molto più infima la posizione dello Stato italiano, perché che cosa è successo? Che la normativa europea si dice che quell'assetto di cui vi dicevo poco fa, cioè la regola per la quale la regola di fondo è l'allontanamento volontario, l'invito ad allontanarsi volontariamente, e quindi diciamo tutta la direttiva con tutta l'impostazione, con tutte le garanzie per la persona straniera, quindi che normalmente non dovrebbe essere né deportato né detenuto, salvo casi eccezionali, tutta questa normativa dice, la normativa europea, non si applica qualora l'espulsione, cioè l'ordine di allontanamento, sia legato alla commissione di un reato. Ovviamente la normativa europea aveva inteso questa eccezione che esclude automaticamente l'applicazione di tutta la normativa europea per il cosiddetto, per i cosiddetti reati, cioè per l'idea di reato che abbiamo tutti noi, cioè per una persona che ha commesso un reato, cioè una violazione importante all'interno dell'ordinamento giuridico. Viceversa, cosa ha fatto l'ordinamento giuridico italiano, cioè o meglio diciamo il precedente governo con la legge 94? Ha inserito in modo infimo il cosiddetto reato di clandestinità, che prevede l'espulsione, cioè ha previsto un meccanismo per cui una persona che è destinatario di un ordine di espulsione, già per il fatto stesso di essere destinatario di un ordine di espulsione, commette un reato e in quanto ha commesso quel reato viene condannato alla pena dell'espulsione. Che cosa ne consegue in pratica? Che una persona in Italia, una persona straniera senza un permesso di soggiorno, invece che commettere un illecito amministrativo normalmente, commette un illecito penale ed è destinatario di un'espulsione penale. Cosicché, creando questo meccanismo, che cosa è successo? Che in pratica in Italia tutti quelli che vengono condannati per il reato di clandestinità sono persone che hanno un'espulsione penale, per cui sono persone a cui non si applicherà in toto la direttiva comunitaria. Cioè, il governo italiano con la legge 94, il cosiddetto pacchetto sicurezza, ha creato un meccanismo che funzionava, era l'unico scopo di eludere l'applicazione della direttiva europea. Cioè era finalizzato a solo questo scopo, tant'è vero che molti commentatori, quando uscì il pacchetto sicurezza e il reato di clandestinità, dissero: sembra in apparenza una norma stupida, perché una persona straniera viene condannata per non avere un permesso di soggiorno, viene condannata per il reato di clandestinità che ha come unica pena l'espulsione, ma è una persona che già aveva un'altra espulsione. In verità la questione è che, così facendo, a questa persona in Italia viene data un'espulsione che ha una natura penale. Avendo una natura penale, sottrae questa persona alle garanzie previste dalla Comunità Europea. C'è stato un escamotage pianificato dal governo attuale per far sì che non si potesse applicare in Italia quella che è la direttiva comunitaria, con le garanzie di rimpatrio volontario che sono state previste dalla direttiva europea. Quindi è stato un piano prestabilito per eludere di fatto una normativa europea che evidentemente voleva garantire tutte le persone che avevano una situazione di semplice irregolarità amministrativa e voleva, come dire, avere una mano più pesante, cioè escludere queste garanzie solo per chi aveva commesso un reato, pensando nella normativa comunitaria a un reato inteso in senso proprio, cioè chi aveva commesso qualcosa di veramente grave. Invece l'Italia, così facendo, ha cercato di eludere tutto il meccanismo europeo e ci sta riuscendo, cioè tendenzialmente ci riuscirà. Allora, ascolta. Lo so che è un po' complicato il discorso da spiegare così in due parole alla radio, insomma, non è semplice. No, anzi, sei stato chiarissimo. Per provare ad entrare nella concretezza, magari che può, l'applicazione di questa normativa ovviamente avrà quasi, cioè, nel senso, mi viene da pensare che ci sarà quasi una discrezionalità caso per caso, non so, individuale, che creerà un ulteriore vuoto legislativo nel quale infilarsi in maniera, cioè, ovviamente equivoca, oppure è chiaro il piano dell'Italia ed è ovviamente indiscutibile. Quello che succederà è quello che sempre di più succede nel diritto dell'immigrazione, cioè un ampliamento a dismisura dei margini di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione e da parte dei giudici. Cioè a una stessa persona, a due persone in due condizioni identiche, può succedere una cosa completamente differente l'una dall'altra, perché avremo di fronte una pubblica amministrazione che ovviamente se ne fregherà della direttiva europea, ma questo è, diciamo, sta quasi nel gioco delle parti. Avremo quindi dei giudici che si troveranno di fronte a questi decreti di espulsione o decreti di trattenimento dentro un CIE, che in teoria dovrebbero da domani disapplicare completamente la legge italiana e applicare la legge europea. Quindi, per esempio, una persona che dovrebbe essere trattenuta in un CIE non dovrebbe avere la convalida del giudice e dovrebbe essere rilasciato, perché il trattenimento nel CIE, nella direttiva europea, è una ipotesi marginale, un'ipotesi eccezionale, che può essere applicata solo se la pubblica amministrazione riscontra una serie di dati precisi. Ma questo ovviamente non avverrà per una serie di ragioni. Ve ne dico due che sono fondamentali. La prima, perché se questo giudice si troverà di fronte a una persona che, non avendo permesso di soggiorno, è stata condannata per il reato di clandestinità, quindi quello introdotto dalla legge 94, questo giudice, anche volendo, non potrà applicare la direttiva europea, perché si troverà di fronte a quell'ipotesi oggettiva per cui la direttiva europea non si applica mai. Cioè, la persona che ha un'espulsione sì, però non un'espulsione amministrativa, cioè non un'espulsione del prefetto, ma un'espulsione di un giudice penale, che è quella che il giudice penale ti dà quando tu vieni condannato per la mancanza di un permesso di soggiorno. Ma non solo, in molte occasioni il giudice domani si troverà di fronte a delle persone che, nonostante in teoria avrebbero dovuto essere giudicate per il reato di clandestinità, non lo sono state, perché lo Stato non ce la fa, cioè i giudici di Roma e delle altre città non ce la fanno a condannare tutti, quindi molti non ce l'hanno questa espulsione penale, hanno solo l'espulsione amministrativa. Però questo giudice semplicemente, molto probabilmente, non conoscerà la direttiva europea, o meglio, è un giudice di pace, è un giudice che probabilmente riterrà che la comunità europea sono tutte sciocchezze, cioè che la direttiva europea non è legge dello Stato, anche se questo è, come dire, fa parte dell'alfabeto base del diritto. Però per esperienza vi dico che nella maggior parte delle ipotesi i giudici di pace ritengono che le direttive europee sono sciocchezze, cioè se non esiste una legge italiana loro non fanno nulla, quindi probabilmente non la conosceranno, e anche se l'avvocato gliela spiegherà non la applicheranno la maggior parte di questi giudici. Quindi avremo da domani una situazione schizofrenica in cui il giudice di pace che va a giudicare sull'espulsione, sul trattenimento del CIE, si può comportare in una maniera assolutamente imprevedibile. Dipenderà da chi è, da che situazione in cui si trova, se esiste o meno una condanna del tribunale sul reato di clandestinità, se conosce o meno quella legge, se ha intenzione o meno di applicare la direttiva comunitaria. C'è una situazione schizofrenica, però comunque c'è sempre una sovranità nazionale rispetto al sistema legislativo. Ma c'è una sovranità nazionale in che senso? Cioè, voi dovete immaginare che a Roma sta succedendo qualcosa di incredibile e di cui nessuno parla. Cioè, voi sapete, no, che quando una persona viene rinchiusa in un CIE può essere trattenuta fino a 6 mesi in questo CIE, però dovete sapere che questo trattenimento in verità dura inizialmente 30 giorni. Allo scadere di questi 30 giorni deve essere rinnovato questo trattenimento, e poi dopo altri 30 giorni rinnovato, e così via fino ad arrivare a 6 mesi. Ok? Fino adesso, cioè fino a diversi mesi fa, la questione era che veniva rinnovato automaticamente, cioè allo scadere dei 30 giorni la polizia chiedeva al giudice di pace di rinnovarlo, e il giudice di pace lo rinnovava senza nessun problema. Se non che è intervenuta la Corte di Cassazione diversi mesi fa ormai, che ci dice che questo meccanismo non va bene, è incostituzionale, e dice che ogni volta che il giudice vuole rinnovare di 30 giorni o di 60 giorni la detenzione dentro un CIE deve necessariamente riascoltare il cittadino straniero, e lo deve ascoltare con il difensore. L'ha dichiarato la Corte di Cassazione in 4 sentenze consecutive, tant'è vero che nella maggior parte delle città si sono attrezzati, per cui ogni 30 giorni fanno una nuova udienza. A Roma viceversa non la fanno, semplicemente. Cioè, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che parla di incostituzionalità, tutti si sono adeguati, Roma non si è adeguata, quindi Roma continua ad andare avanti senza dare seguito neppure alla Corte di Cassazione italiana, senza nessun problema. Pensa tu se e in che misura andranno a dare seguito a quelle che sono invece le direttive europee. Cioè niente, cioè ovviamente il diritto non vige quello che è un meccanismo per cui il giudice di pace prende 10 euro a convalida, quindi ne deve fare il più possibile, perché a casa se no non torna con meno di 70-80 euro, quindi praticamente vige un meccanismo che di diritto e di legalità non ha nulla, cioè neanche l'ombra, capito? Per cui allora, cioè, probabilmente quello che succederà è che ci sarà qualcuno che avrà una botta di fortuna e si troverà applicata la direttiva europea, e il 99% che invece continueranno ad andare avanti come se niente fosse. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente, perché insomma hai prefigurato quello che è un vicolo cieco, ovviamente un qualcosa che mette in discussione tutto. Non si tratta di appigliarsi né alla normativa per poter trovare quel cavillo. Penso che anche in tema di appelli e ricorsi ci sia un'estrema difficoltà che non ci possa far intravedere insomma quello che è. Non è quella la strada da seguire, cioè, perché comunque con quella strada si risolvono dei casi singoli di persone che poi risultano particolarmente fortunate, che escono dal CIE, però la questione è la quantità, cioè la questione numerica delle persone che stanno là dentro non si risolve assolutamente in via giudiziaria cercando di trovare applicazione o meno di una normativa comunitaria, cioè non è quella la strada, perché si risolve la questione di un singolo ogni tanto, ma assolutamente non la questione in sé.